difenderò questo amore. Con tutti i miei baci, le mie carezze, i miei sospiri, finché vivrò, proteggerò questo amore da tutte le insidie, dalle perfidie che incontrerò. Più bello e splendente del sole, più limpido e grande del mare, io voglio così conservare questo amore finché vivrò. Difenderò questo amore con tutti i miei baci, con tutto il bene che voglio a te. Tu mi vuoi bene, ma strano il tuo amore, tutto pretendi e nulla vuoi dare. Tieni sospeso ogni giorno il mio cuore, se tu non sai che dolore mi dai. Ma in te, ai, ai, ai, voglio credere ancora. Ancora sperar, finché vivrò. Finché vivrò, proteggerò questo amore da tutte le insidie, dalle perfidie che incontrerò. Più bello e splendente del sole, più limpido e grande del mare, io voglio così conservare questo amore finché vivrò. Difenderò questo amore con tutti i miei baci, con tutto il bene che voglio a te, e t'amerò.